voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Quindicesima puntata. Odio. Un giorno uno studente passò davanti alla porta di un grande albergo di montagna e vide uscire una donna un po' anziana. Anzi, la udì, perché la sua attenzione fu attratta da un suono animale, un canto di ranocchio. Girò lo sguardo e vide infatti una donna piccola, rotonda, fasciata da una pelliccia di visone bianco foderata di visone scuro. In capo aveva un colbacco a forma puntuta, anche quello di visone bianco e scuro. Anche gli stivaletti che aveva ai piedi erano lavorati con del visone bianco e scuro a spina di pesce. La guardò in faccia, una faccia cotta da lunghe esposizioni al sole, marrone, unta e luccicante, a forma di escremento di mucca, come a cerchi concentrici. Al tempo stesso pareva il muso schiacciato di un rospo, con due palle scure sporgenti ai lati, sormontate da una specie di cordone di sopracciglia fatte con la matita nera e una larghissima bocca pendula agli angoli, senza labbra e tuttavia carica di rossetto. Aprì la bocca, che pareva senza denti, ed emise quel suono di rospo cantante, proprio come un rospo gonfiando la gola e le vene del collo. Lo studente, che era molto vicino, non capì il significato di quel suono, però doveva essere un ordine a un cameriere, che subito si affrettò verso una sdraio, la aprì e fece un cenno servile alla donna. Questa sedette con le gambe larghe, estrasse 10.000 lire nuove di zecca e, come già pronte, da una borsa di coccodrillo biancastro, con una mano scura tutta membrane e unghie colorate, e le porse al cameriere. Questa visione e il suono che ne usciva dal taglio umido e rosso della bocca, con felicità e soddisfazione, colpirono con violenza lo studente, che si sentì impallidire e poi arrossire, sopraffatto da un fortissimo sentimento di odio. Egli aveva provato odio molte volte, ma forse non era odio se paragonato a quanto provava in quel momento. In quel momento egli avrebbe afferrato la donna dalla sdraio, trascinata sulla strada, colpita, calpestata e uccisa con gli scarponi da sci. Aspettava degli amici che già lo chiamavano da una lunga automobile. Con grandissimo sforzo distolse gli occhi, eludito dalla donna, e si avviò verso di loro. Di natura allegra, fece il viaggio con gli amici verso i campi di sci, senza dire una parola, tanto che una ragazza di nome Marina, la Marilyn della facoltà di fisica, gli disse: «Oh, Pino!» Lo studente aveva lo strano nome di Fior di Spino. «Ti sei svegliato male?» «Non mi sento bene», disse lo studente con voce debole, come se stesse per svenire. Era pallidissimo e ancora preda di quel sentimento che non era riuscito a spiegare dentro di sé, tanto grande era l'emozione. La strada si inerpicava verso i campi di sci a strette curve, e dopo due o tre di queste curve lo studente, che non aveva mai sofferto di macchina, chiese precipitosamente al guidatore di fermare, balzò fuori e vomitò sulla neve. Si vergognò, specialmente nei confronti delle ragazze. Marina invece si avvicinò subito a lui, che stava bocconi sulla neve ai bordi della strada, e con una mano la raccoglieva e si strofinava la faccia. Disse ai ragazzi in macchina: «Andate avanti voi, se mai faccio l'autostop, non mi sento bene stamattina, scusatemi tutti». Ci furono proteste di solidarietà, con in testa Marina nella sua tuta rossa che non voleva muoversi. Il guidatore, che proprio quell'inverno doveva laurearsi in medicina, accostò la macchina al bordo della strada e fece il suo dovere di quasi medico. Scese e diede un'occhiata all'amico bianco come la neve. «Ci vorrebbe un cognac, qualcosa del genere», disse il quasi medico. E subito un altro ragazzo, grasso e con i capelli rossi e ricciuti, tirò fuori dalla tasca della giacca a vento una minuscola bottiglia di whisky che porse all'amico. Lo studente Beve un lungo sorso, subito si sentì meglio. Riprese anche colore e dopo qualche passo e qualche esercizio di ginnastica, era un ottimo atleta, leggero, della squadra universitaria, fece una corsetta e rientrò in macchina. Salirono e giunsero alle seggiovie. Da lì partirono verso la vetta e sciarono fino alle 2 del pomeriggio. Parlarono moltissimo sciando, si davano consigli e raccomandazioni, i più scadenti ai più bravi. «Attento alla valanga!» dissero allo studente che era uscito di pista verso la neve fresca per fare una delle sue solite esibizioni da camoscio. Ma lo studente non si sentiva in forma e cadde provocando una piccolissima valanga, da cui però si rialzò e riprese a scendere pesando più che poteva sulla neve rotta. Ma non era in forma, al rifugio quasi non mangiò. Tornarono alle 4, poco prima che il grande freddo del crepuscolo scendesse sulle montagne dalla Punta Rosa. In camera, finalmente solo, Pino doveva studiare, ma non poté farlo perché davanti alle formule, anzi egli pensò davanti alla cultura delle formule, si posò subito la larga faccia a forma di escremento di mucca della donna e la sua voce di rospo. Di nuovo quel sentimento lo prese, quasi gonfiandogli i muscoli che sarebbero stati pronti a scattare in modo autonomo dalla mente contro la donna per picchiarla, calpestarla e ucciderla. Lo studente si sfogò sul cuscino del letto e dopo una buona scarica di pugni si sentì più calmo e si mise a pensare: chi poteva essere quella donna? Una riccona, certamente, da come era conciata con quel doppio, triplo visone e quella borsa e le 10.000 lire date al cameriere solo per aver aperto la sedia a sdraio. Forse una fruttivendola all'ingrosso, una da mercati generali, ma no, molto di più. Forse una commerciante di bestiame, forse aveva addirittura una banca, ma certamente la sua origine era popolare, una self-made woman, se non una baldracca che aveva sposato un riccone. Ma non doveva essere così. Chiaramente i soldi, se li era guadagnati lei personalmente, con affari, o meglio, con qualche fabbrica semiclandestina, certamente non aveva marito, o se lo aveva il marito non contava nulla, era un poveraccio, magro, piccolo e servizievole. Ma perché quel sentimento, quell'odio? Ora lo studente capiva che quel sentimento era soltanto odio. Poiché era colto, lo analizzò ed escluse subito che fosse odio di classe, sempre indiretto. Qui si trattava di odio diretto, immediato, sotto certi aspetti animale, insomma lo definì tra sé odio di razza, di specie. I suoi personali interessi di biologia, di comportamento animale, non lo aiutarono. Persistette nella definizione di odio di razza, di specie, concludendo tra sé e rasserenandosi ad ogni istante di più che gli uomini appartenevano solo convenzionalmente, anche se scientificamente, alla stessa razza, alla stessa specie, ma che in realtà erano di razze diverse, di una moltitudine di specie diverse che si polverizzavano fino all'individuo. Lo studente dormì male. Si svegliava continuamente di soprassalto, ma non ricordava se erano sogni o incubi che lo svegliavano e quali. Al mattino si alzò presto, andò a prendere dei giornali, sedette al caffè, lesse ma sempre controvoglia e tutto sommato dimenticando di quanto leggeva, una parola dopo l'altra. Vagò per il paese, durante la notte era caduta molta neve, in uno stato di grande inquietudine. Non voleva quasi dirlo a se stesso, ma temeva di rivedere quella donna, di incontrarla da qualche parte. Al tempo stesso lo voleva. Era quasi l'ora dell'appuntamento. Lo studente aveva appoggiato bastoncini e sci contro un distributore di benzina chiuso. E fu in quel momento che sentì il richiamo, il canto di rana della donna. Era uscita, stavolta con un'altra pelliccia, di lupo o di lince, molto gonfia e lunga fino ai piedi. Sempre però con uguale colbacco e una borsa di coccodrillo scura. Parlava e rideva, mostrando il buco vuoto e nero della larga bocca, dentro cui si intravedeva la lingua rossa e luccicante. «Forse ha un difetto nella bocca», pensò lo studente con calma, ma immediatamente l'odio lo fece avvampare e gli gonfiò i muscoli proprio nel momento in cui la donna passava accanto a lui. Lo studente vide le palpebre della donna, verdi di bistro, calarsi un attimo sui bulbi degli occhi, proprio come le membrane dei rospi, e però volendo esprimere tra sé qualcosa. Un momento di concentrazione, un conto dei conti, come per qualche grosso guadagno da ottenere o non ottenuto. Lo studente le diede un calcetto con uno strano riso, un piccolo calcio con la punta degli scarponi. Le palpebre verdi della donna si aprirono di colpo. Gli occhi sporgenti lo guardarono con paura. Le zampette si afferrarono a tutta la borsa stringendola a sé. Lo studente diede un altro calcio, molto più forte. A questo punto la donna mandò alto quel canto di rana che però era lento, a strappi, quasi a chiamare gente. Ma la gente non poteva capire quel verso e lo studente le diede un pugno molto forte, prima sul colbacco, che affondò fino agli occhi, e poi nel mezzo della faccia, da cui zampillò subito il sangue. La donna annaspò, fece come un piccolo balletto cieco intorno a se stessa, scivolò sul ghiaccio e cadde. Sulla terrazza la gente guardava, incuriosita più che impaurita. C'era anche un vigile e un cameriere in giacca bianca, ma chissà perché nessuno intervenne. Tutti guardavano ma non si muovevano. I colpi dello studente erano tremendi, il sangue gocciolava nella neve e ad essi rispondeva quel canto lento di rana, qualche sgambettio e niente di più. A un certo punto lo studente tentò di sollevarla da terra per il risvolto della pelliccia, che subito si scucì, e portò il volto unto e scuro vicino al suo per il colpo più forte, quello con cui avrebbe voluto ucciderla in piena faccia. Avvertì anche l'odore della crema per il sole, ma in quel momento però la donna parve quasi sorridere, allargando la già larga bocca vuota e rossa di lingua in un sorriso di intesa, di accordo, insomma di affare. Fu un attimo, l'attimo in cui lo studente, sollevato il pugno sopra la propria testa, stava per calarlo sulla faccia di lei con la maggior forza possibile. Ma quel sorriso, quella proposta d'affare, tolsero ogni forza al pugno e vinsero. Lo studente lasciò andare la donna, che scivolò per terra, ripetendo il suo verso e sempre guardando con quel sorriso. Si girò di scatto e si avviò verso la macchina degli amici, che era già lì ad aspettarlo. Caricò gli sci e partirono. Nessuno dell'albergo e dell'esdraio si mosse, nemmeno il vigile. E la donna, dapprima a quattro zampe, poi barcollando, si rialzò in piedi, si riassettò e lentamente, con un fazzoletto al naso, riprese la sua passeggiata. Ozio. Un giorno un uomo lunatico fu svegliato poco prima dell'alba da un temporale. Tuoni e lampi sembrava aprissero crepe nel muro e i fili elettrici mandavano scoppiettii e qualche scintilla. Abitava in una minuscola casa quasi sepolta in mezzo a un bosco. La sera prima si era addormentato al verso sgraziato di una gazza ancora sveglia. Anzi, erano due o tre gazze. O erano raganelle. Ancora ci pensava nonostante il frastuono. Non potevano essere raganelle. Erano certamente gazze. Tale il quesito che si era posto durante il giorno a più riprese e anche i giorni precedenti. Sul quesito lo aveva colto il sonno, ed egli si era disteso di traverso nel grande letto dalle lenzuola ruvide con uno sbadiglio. Ancora caldo di sonno lo sorpresero i tuoni e i lampi, il grande vento e poi la pioggia che scrosciava e un rumore strano come di fontana lo colpì subito in mezzo a tutto quel fragore. Si alzò e aprì la finestra. Gli alberi erano squassati in qua e in là dal vento e battuti dalla pioggia, la luce di un grigio azzurro. Nubi bianche come di fumo passavano veloci sotto quelle grigie ad una seconda altezza, e ancora più alte stavano quasi immobili altre nubi colore del piombo, ma il sole da qualche parte dava un colore sulfureo ai margini del piombo. Si vestì in fretta e si chiese ancora una volta da dove veniva quel rumore di fontana, e una grande curiosità di uscire lo prese. Scese al piano di sotto, aprì scurie porte subito investito dagli schizzi della pioggia. Uscire doveva uscire. La casa era umida e doveva accendere il fuoco. Per farlo occorreva legna e la legnaia era fuori casa. Si mise in capo un berretto e uscì guardando in alto da dove veniva il rumore d'acqua. Si accorse subito che le grondaie erano bucate e da quei buchi usciva l'acqua come da fontanelle. Quella era l'origine del rumore. Ma chi poteva aver fatto quei buchi, così piccoli, così rotondi, così precisi? Si infilò nella legnaia e scelse con cura la legna. Pezzi sottili per accendere e pezzi più grossi per più tardi. Rientrò nella casa buia, alla luce verde del temporale andò al caminetto, dispose carta e legna per il fuoco e accese. La legna era secca e come sempre la vampa della carta bastò ad accenderla. Poi passò in cucina e si diede da fare intorno al fornello per il caffè. Intanto il fuoco crepitava. La legna si infiammava meravigliosamente nonostante l'umidità esterna e il camino tirava con sospiri e boati. Beve il caffè davanti al fuoco e accese una sigaretta. Chi mai può avere bucato così le grondaie? Almanaccò sull'origine di quei buchetti e dopo un po' di tempo decise che erano pallini di fucile. I cacciatori. Erano stati cacciatori in sua assenza che per seguire un uccello avevano sparato a vanvera e colpito le grondaie. Una grande attività fremeva nel suo cervello, un'attività tanto veloce quanto inafferrabile che appunto lo obbligò ad esaminare di quale attività si trattava e nel caso di scegliere tra le tante che componevano quell'energia. «Già, che devo fare?» si disse l'uomo a cui sembrava di avere molte cose da fare. «Cosa devo fare così urgentemente?» Ma nessuna attività, benché evocata, prese una vera fisionomia. L'uomo rabbrividì piacevolmente e pensò che la prima attività era quella di infilare un maglione. Quale maglione? Ne aveva tre, di vario spessore, e dopo lungo ruminare decise che quello di mezzo era quanto ci voleva. Di lana sì, ma leggero. Corse di sopra, come se il maglione gli scappasse di mano, e lo indossò. Si sedette, accese un'altra sigaretta e attese che la grande, troppa energia che galoppava nella mente prendesse forma e si organizzasse in qualche attività precisa, almeno una. Una, piccolissima, fu di andare a prendere altra legna per il fuoco che aveva già divorato due ciocchi in quello che a lui pareva un batter d'occhio. Si sedette su una sedia alta e scomoda, giudicando che la poltrona era troppo comoda, invisa al mattino e inadatta a saltar su prontamente per cominciare il lavoro. In quella sedia scomoda fu però preso dal ricordo di una specie di fiaba che aveva inventato e raccontato lì per lì la sera innanzi a un bambino di 5 anni. Su un nano, nerboruto, forzuto e peloso, con barbetta appuntita e curva, che si aggirava e abitava nei dintorni. Un nano che non era precisamente un nano ma un elfo, un ognomo che l'uomo aveva detto essergli in qualche modo amico, anche se avarissimo di parole, e con la R moscia. «Ma come è vestito?» aveva chiesto il bambino. «Ha un giubbetto di pelliccia, una specie di giacca lunga fatta con pezzetti di pelliccia cuciti alla belle meglio. Va per le case a chiedere in prestito ago e filo, ma ha delle mani con dita piccole che sembrano croste d'albero e non si sa come fa a cucire. È solo, gira tra il bosco e il fiume e nei momenti liberi si fa i vestiti da sé. Pelliccia di quale animale?» aveva chiesto ancora il bambino. La precisione nei dettagli, soprattutto linguistica, era il suo dono. Usava parole come squisito e delizioso, con una S un po' sibilante, tuttavia roteando le manine, le dita in modo tutt'altro che preciso, anzi impreciso e sognante. L'uomo aveva trovato immediatamente la risposta imprevedibile. «Di topo», aveva detto con noncuranza, e a quel «topo» Lorenzo aveva spalancato dita e occhi senza parole. Ora l'uomo, seduto sulla sedia scomoda per essere subito pronto a balzare in piedi e dedicare tutta l'energia a qualche attività che però tardava a comparire, pensò di andare avanti con l'invenzione del nano e trovare altri particolari per proprio conto che forse poi avrebbe raccontato a Lorenzo. Ma niente, nessun particolare gli veniva in mente. La velocità dell'immaginazione provocata dalla richiesta del bambino se n'era andata con il silenzio totale della notte e del sonno. Dalle campane lontane di là del fiume, l'uomo sentì suonare mezzogiorno. «Mezzogiorno», si disse. «È già mezzogiorno, non è possibile. E così in questo modo ho perduto tutta la mattinata. Ora devo anche preparare da mangiare». Era solo, viveva solo. Provvide a cucinare un po' di cibo. Stese la tovaglia, andò a prendere in cantina un bottiglione di vino coperto di tele di ragno. In cantina vide il grosso culo di un topo andarsene senza fretta, ballonzolante come quello di certi americani, con la brutta coda a seguito. Era tornato il temporale. Due temporali a poche ore di distanza, si disse quasi incredulo. Ma se pareva che uscisse il sole. Che tempo lunatico! Ma pensò a se stesso, al proprio carattere, e la sorpresa severa si perse in un brontolio interiore. La luce nel cielo si abbassò, gli alberi ripresero a piegarsi al vento e la pioggia a battere sul tetto. Qualche goccia entrava nel camino e lontano, nel grande prato sottostante, si udì zufolare una canzone con modulazioni perfette. Sotto quell'acqua c'era chi andava in giro per i prati? L'uomo sbirciò e vide effettivamente un grande ombrello nero che scomparve. Il cielo era buio. Era perfino mancata la luce. Ogni attività delle molte che aveva in animo era per il momento sospesa. Andò di sopra, si distese sul letto, si coprì con un piumino e si addormentò. Ma si svegliò poco dopo. Erano passati soltanto 10 minuti. Si sentiva molto bene, in grande energia. Ora era pronto a fare tutto quanto aveva tralasciato di fare al mattino. Ma era così buio. Andò a prendere altra legna da depositare sulle braci del camino anche per ottenere un poco di luce. «Ma quel nano, quel nanetto, in fondo sono io», pensò l'uomo con grande piacevolezza, ma qualcosa gli disse: «Il nanetto lavora, hai detto che taglia la legna, la ammucchia e fa carbone». «Già», disse l'uomo ad alta voce, tanto nessuno lo sentiva, «fa carbone». «E tu che fai?» gli parve di udire la voce di Lorenzo chiedergli. Con gli occhi spalancati e la piccola testa biondissima e sorridente piegata da un lato. Nell'ombra apparve all'uomo di vedere la testina di Lorenzo, piegata da un lato, color fosforo. I capelli, le ciglia e le sopracciglia così bionde erano anche fosforescenti e quel chiarore illuminava gli occhi azzurri e allegri. «Quel bambino è un diavolo, un diavoletto, effettivamente ha qualcosa di diabolico», pensò l'uomo con serietà. Prima di tutto la fosforescenza. Stava parlando a voce alta, nelle due parti, sua e di Lorenzo. Fuori era decisamente buio, pioveva con regolarità e l'uomo a volte distingueva la goccia di pioggia nel momento in cui batteva contro una foglia. Guardò l'ora, 6:00. Come era passato tutto quel tempo? Era una cosa impossibile, incredibile. Egli stentava a credere, ma era passato così. Fantasticando, pensando. Così praticamente la giornata è finita. Una giornata veramente oziosa, si disse. Ora era troppo tardi per mettersi a fare qualcuna delle molte cose da fare. Rimandiamo a domani. Anzi, poiché era sabato, a lunedì. Si accorse di non aver fatto toilette al mattino. Con tutto il vortice delle cose da fare, con l'energia che premeva per realizzarsi il più presto possibile, si era dimenticato di fare toilette, di radersi. Si passò la mano sotto il mento. Ora è troppo tardi per radersi, non c'è ragione, la giornata è finita e poi non c'è luce. Infatti la sola luce nella piccola casa era quella delle fiamme che lingueggiavano nel camino intorno a un grosso ciocco. Rapide lingue di fuoco, puntute, che sorgevano senza alcuna regolarità da sotto il legno, altri demonietti del tipo di Lorenzo che lo prendevano in giro. L'uomo si preparò il cibo, una tazza di brodo in cui gettò pezzi di pane vecchio. Non aveva fame. «Cosa mangia il nanetto?»